Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e vedete la faccia mia con gli occhiali, o su Twitter digitando @luogoc, oppure scriveteci una mail con proposte, suggerimenti per nuovi motti, aneddoti, per nuovi luoghi comuni appunto, o anche per critiche, insomma, se vi è piaciuta o non piaciuta questa puntata che starete per sentire, oppure le scorse puntate che comunque, ricordo sempre, troverete sul profilo Facebook. La mail in questione è luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è: la pubblicità è l'anima del commercio, e ne parliamo appunto con Marco Carnevale, che è partner e direttore creativo dell'agenzia Yes I Am. Buongiorno Carnevale. Buongiorno a tutti. Carnevale, noi la vediamo, non a lei ma alla pubblicità, sui mezzi di trasporto, nei cartelloni spesso abusivi in città, riempiono appunto le impalcature dei restauri, ci danno il tempo di andare in bagno durante i film, diventano anche modi di dire, ci influenzano nelle scelte che facciamo nel quotidiano. Queste benedette pubblicità come nascono nella vostra testa? Quali sono, cioè, gli ingredienti di voi creativi che entrano in gioco per creare una pubblicità che vi faccia dire: ecco, ho proprio colpito nel segno? Dunque, la pubblicità colpisce nel segno, nel vero senso della parola, quando riesce a intercettare un sentimento sociale, un bisogno sociale, un'aspirazione sociale, eccetera eccetera, quando cioè trova un punto di intersezione con qualcosa che esiste a prescindere dalla pubblicità stessa e a prescindere dallo stesso prodotto e dalla stessa marca che la commissiona e che la firma. Noi in Italia siamo nel luogo meno idoneo ad osservare e a confermare questo quanto ho appena detto, perché il 99% della pubblicità italiana viene fatta a prescindere e anzi contro le regole basilari della pubblicità, perché questo non è un paese molto bizzarro solo a livello politico e culturale ed economico, ma è un paese molto bizzarro naturalmente e di riflesso anche per la pubblicità. Ma la pubblicità, visto che appunto ne ha parlato in maniera appunto relazionata al paese, può essere di destra o di sinistra, per esempio? Da un certo punto di vista si potrebbe dire polemicamente e molto, molto rozzamente, secondo me, che la pubblicità è tutta di destra. Questo è interessante, questo è un concetto interessante. Perché la pubblicità è di destra? Ma perché c'è una retorica in gran parte, come dire, argomentata e in altrettanto gran parte qualunquista, che si fonda sull'assioma che, in quanto strumento della società industriale capitalistica, la pubblicità non può che essere, come dire, funzione e arma di una certa cultura liberista, il che è naturalmente ed ovviamente vero in origine e sostanzialmente vero per tutto un percorso che la pubblicità ha avuto nell'evoluzione storica, insomma. C'è da dire che quasi come contrappeso a questa natura biologica della pubblicità, la pubblicità moderna, più vicina a noi, ma non necessariamente l'ultimissima pubblicità, ha svolto anche un lavoro antropologicamente molto meno, come dire, funzionale in maniera univoca all'industria e ai committenti, per un motivo molto semplice, perché la pubblicità da almeno un trentennio in qua, sto parlando sempre di un mondo molto più modernizzato del nostro, sta svolgendo una funzione molto delicata, che è quella di tenere legati attraverso delle costruzioni di senso gli esseri umani, i cittadini, i cosiddetti consumatori e il mondo delle merci, dei servizi, che diventa sempre più pervasivo. La natura commerciale dei messaggi diventa sempre più ridondante, sempre più invasiva, sempre più copiosa, con i nuovi strumenti di comunicazione digitali, sempre più pervasiva. E l'assedio delle merci senza un'attività di costruzione di senso e di relazione espressiva con gli esseri umani rischierebbe di tramutarsi in una specie di strumento di strangolamento dell'immaginario Quindi lei pensa che si è passati da, diciamo, dalle repubbliche dei cittadini alle repubbliche dei consumatori, nel senso di enormi stati supermercato, dove tutto, le idee, i rapporti sociali, il nostro posto proprio nel mondo, la visione che abbiamo anche degli altri è influenzata dal modo in cui spendiamo il nostro denaro, cosa acquistiamo, come appariamo e anche ciò che possediamo, cioè, nel senso, quindi questa è la piena realizzazione del motto produci, consuma, crepa? Questo fenomeno è in atto da un punto di vista proprio pratico, tecnico, concreto, mi sembra di poter dire, almeno io lo vedo così. Basti vedere la proliferazione delle città del consumo, no? che sono nate in Francia, che qui più prosaicamente chiamiamo centri commerciali, no? C'è un investimento di tempo libero addirittura, no? Che sempre più persone passano in queste strutture del consumo compulsivo, no? Anche non luoghi? Sì, certo, i famosi non luoghi, insomma, i non luoghi per eccellenza. Naturalmente non voglio fare l'anima bella, non voglio sostenere, come dire, delle posizioni di tipo troppo politichese. C'è questo fenomeno nei fatti, questo fenomeno prescinde dai pubblicitari, prescinde dai consumatori e anzi si rivolge in maniera aggressiva nei confronti dei consumatori, ma c'è una parte molto importante del pensiero e della pratica pubblicitaria che in realtà sta amministrando questo fatto che prescinde dall'attività pubblicitaria in modo tale da dargli un significato e una vivibilità e una, come dire, uno spessore spendibile a livello relazionale, eccetera, in modo tale da non chiudere completamente il cerchio del lavora, produci, crepa, consuma, crepa, no? Mm-hmm. Cioè, quel circuito non nasce dalla pubblicità, quel circuito nasce da una direttrice di sviluppo che hanno preso le nostre società. Le marche più illuminate, più come dire, anche quelle che vivono a contatto più profondo e più articolato con le persone, sanno ad esempio da tempo che la parola consumatore e il concetto di consumatore è un concetto molto pericoloso, perché le persone, che sono i veri protagonisti degli atti di consumo, oggi rifiutano di riconoscersi in questa figura. E perfino i protagonisti dello shopping compulsivo sentono di assumere dei comportamenti a proposito del consumo che loro stessi non gradiscono, che subiscono in qualche modo. Okay? Questa cosa, se viene cavalcata in modo strumentale dalle marche e dalla pubblicità, finiscono per creare una tensione negativa tra le persone e le marche. Viceversa, se le marche cercano di incontrare le persone su un terreno più vicino alle persone... Ma coniando che termine? Cioè, quindi, ok, leviamo consumatore, e che gli è venuto in mente per sostituire questo concetto? Ma per esempio c'è una presa d'atto che in molti paesi avanzati è abbastanza diffusa e in alcuni addirittura maggioritaria, del fatto che i consumi di tipo funzionale decrescono, mentre crescono progressivamente i consumi cosiddetti espressivi, cioè aumenta la quota di prodotti e servizi e quant'altro che le persone acquisiscono come un modo di esprimere se stessi, come un codice da scambiare nelle relazioni, come una proiezione. Tipo un esempio pratico. Un esempio molto molto molto banale, forse basterebbe questo, ma ce ne sono mille. Per esempio la crescita della quota di mercato delle auto che non vengono acquistate per motivi di status, no? Ma vengono acquistate invece perché quelle marche come dire, danno dei propri utilizzatori l'immagine di persone che assegnano all'automobile un ruolo del tutto funzionale o del tutto marginale rispetto alla la propria vita. Questo è un fatto nuovo, cioè 30 anni fa non era un fatto assolutamente. Le auto che non erano di marche primarie particolarmente performanti o particolarmente costose venivano vissute, specialmente nel mondo latino, come delle rinunce all'ideale assoluto dell'auto, come no, quelle robe di un'ammissione di prolungamento della virilità, no? Invece oggi si è aperto tutto uno spazio per un altro consumo dell'auto che costituisce un po' il terzo polo tra il maniaco dell'auto colui che rifiuta l'auto e che ha deciso di espellerla dal proprio pannello di consumi e di utilizzo. Un altro esempio classico, forse ancora rilevante, è la divisione dell'universo digitale in due mondi completamente separati, che è quello di Apple, degli utilizzatori di Apple, sì, e quello degli utilizzatori di tutte le altre marche. Stiamo parlando quasi di due partiti politici, ma forse di qualcosa di più. Stiamo parlando di due universi antropologici che non si rispecchiano l'uno nell'altro, ma si vivono in qualche modo come separati, se non addirittura contrapposti. No? Nel mondo Apple si identifica tutta la comunità che a ragione o torto si identifica come creativa, come aperta, come... Perché tu all'Apple però gli hai venduto un'idea, al consumatore Apple, all'utente Apple gli hai venduto anche un'idea dietro. Così si spiega il successo, anzi così, cioè, così io da profano mi spiego perché sono disposti a pagare tre volte tanto. No, ma certamente questo discorso tecnicamente dal punto di vista pubblicitario sarebbe molto molto interessante, ma molto molto prolisso, come dire, ma c'è sempre dietro questi mondi costruiti dalle marche, c'è sempre una grande idea creativa che non è un'idea creativa, come dire, imposta ad una società che non era pronta a recepirla. È una grande idea creativa perché riesce a interpretare nello stesso momento e fondendole il più possibile l'una con l'altra l'input della marca, quindi la richiesta e l'obiettivo di mercato, se volete, della marca, con un sentimento, un bisogno, un'aspirazione che vengono già dalla società. E queste operazioni hanno bisogno di un grande pensiero creativo, di una grande capacità di leggere la società in maniera onesta, in maniera profonda, in maniera ricettiva, e di una grande capacità anche di dialogo col mondo industriale, perché nel mondo normale chi produce beni di massa specialmente è abituato a dialogare col mondo esterno, non a cercare, certo, di imporre al mondo delle idee unilaterali. Senta, Carnevale, più diciamo le democrazie occidentali, soprattutto dopo l'11 settembre, no? E per chi segue Luogo Comune sa che è stato proprio l'argomento dell'ultima puntata, stanno andando verso forme più o meno manifeste di autoritarismo, di controllo, di telecamere dappertutto, di intercettazioni a sprombattuto, vedi il Datagate di questi mesi negli USA, no? Più il lavoro nel lavoro si è sottoposti a vessazioni e lacci con ricatto appunto di perderlo, c'è la crisi, poi che fai, dove lo trovi un altro lavoro? Più tutte le pubblicità però che vedo veicolano valori come la libertà, l'indipendenza, l'anticonformismo, rompiamo le regole nella vita, mi faccio la macchina, vado fuori città, faccio come mi pare, vestiamoci colorati, facciamo i matti. Cioè, perché la società è, diciamo, appunto una società fatta di telecamere, controlli, convenzioni sociali, sempre anche, ripeto, soprattutto nell'ultimo decennio, più strette, e più invece la pubblicità mi veicola invece idee che, di libertà estrema, io posso fare quello che voglio. Soprattutto, guardi, questa è una cosa che ho notato tantissimo, soprattutto nelle auto, però non voglio adesso fissarmi su un prodotto, ma veramente vedo che la pubblicità spinge molto questo concetto di libertà, di rompere le regole, però poi quando chiudo la televisione o il computer o quello che è, vedo la società com'è. Sono in una gabbia. Sì, cioè, come, ma forse la pubblicità è la vita come vorremmo? La pubblicità è stata a lungo la vita come vorremmo. La pubblicità è nata come la pubblicità di massa, la pubblicità, come dire, anche massificata in sé, è nata un po' come un'estensione del sogno americano, no? Quindi è inevitabile che porti con sé questo tipo di marchio genetico in qualche modo. Ma da parecchio tempo, nei paesi dove il linguaggio pubblicitario è più evoluto e dove le aziende sono più abituate e più preparate sul piano della comunicazione, questo discorso non è così vero. Cioè, il panorama pubblicitario, per esempio nel mondo anglosassone, nei paesi del nord Europa e anche negli Stati Uniti, da parte di alcune marche che sono tra i maggiori investitori di quel gigantesco e ricchissimo mercato, il panorama pubblicitario è molto molto affollato di ritratti molto cupi, molto contraddittori, molto inquietanti. Questo, insomma, come dire, non è un gioco punk, questo è un modo di trovare la sintonia con qualcosa di più profondo che c'è nella platea dei cosiddetti consumatori, anziché limitarsi a cercare di sedurli con immagini oniriche di un Eldorado del bel mondo che fu o che potrebbe essere, ma sappiamo tutti che per parecchio tempo ancora non sarà, come succede invece in Italia. L'Italia è il paese della pubblicità come favola raccontata a un popolo di sudditi quasi inconsapevoli e cerebralmente non considerati all'altezza. Del resto, noi siamo un paese in cui c'è stato un personaggio molto, molto noto e molto attivo, anche fin troppo attivo, che per 20 anni, dalla testa del governo, ma anche dalla testa di un impero mediatico, ha ripetuto di considerare tutta l'audience di tutte le sue attività come dotata della stessa intelligenza di un bambino di seconda elementare non seduto neppure ai primi banchi. Ecco, questa cosa è nello stesso tempo una cialtroneria indecorosa e altamente censurabile, è un atteggiamento antisociale, incivile e regressivo, ma è anche, ahimè, un punto di vista condiviso da moltissime decisori dell'industria italiana, dell'industria non solo pesante, ma anche dell'industria culturale italiana, che coopera a far sì che si preferisca in linea generale in Italia parlare alla gente come si parlasse a dei bambini. Carnevale, no? Senta, è arrivato il momento di fare una piccola pausa, non pubblicitaria, ma una pausa musicale, diciamo che metto sempre qualche minuto proprio di canzone inerente sempre al tema che stiamo per trattare, visto che la pubblicità è l'anima del commercio, è il luogo comune di cui stiamo parlando. Ho preso degli Stereophonics Have a Nice Day, che è una canzone che insomma stiamo sentendo un pochettino al cinema, alla radio o in TV, legata a una famosa compagnia assicurativa. Ce ne sentiamo un paio di minuti e poi ritorniamo con lei. E ritorniamo in studio dopo la pausa musicale, sempre Valentino De Luca dai microfoni di Radio Città Aperta per Luogo Comune. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta. E c'è la faccia mia su Twitter digitando chiocciola Luogo C, oppure scriveteci una mail a luogocomune.radio@gmail.com con pareri, critiche, suggerimenti e quant'altro. Il tema di oggi è: la pubblicità è l'anima del commercio, e ne stavamo appunto parlando con Marco Carnevale, partner e direttore creativo dell'agenzia Yes I Am. Carnevale, diciamo che una cosa insomma che si dice della pubblicità qua in Italia è che non vende solo se accompagnata, diciamo che vende, anzi mi scusi, solo se accompagnato da un riferimento sessuale. Diciamo che è vero o no, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista appunto della creatività, che la patatina tira? In Italia più in generale si crede che la pubblicità funzioni solo se accompagnata da puntini puntini. A volte è la patatina, a volte è il faccione di una persona famosa, per altri motivi già famosa di suo. Altre volte si crede che la pubblicità non funzioni se non accompagnata da, ad esempio, un brano molto famoso. Tutte queste cose sono non solo delle falsità assolute, ma sono una proiezione della mentalità arcaico-superstiziosa con cui si vive la comunicazione in generale in questo paese, e naturalmente in particolare la pubblicità. Le aziende italiane sono, e anche le istituzioni italiane, basta vedere come comunicano i partiti, sono convinte che le persone accetteranno un certo messaggio solo perché noi lo abbiamo emesso. Sono incrollabilmente convinti di questo. Per cui non si fanno alcuno scrupolo di condire le loro comunicazioni, i loro messaggi, con ciò che gli sembra già funzionare nelle altre pubblicità. Tutta questa è una montatura mitologica, non ha nessun fondamento né razionale né statistico né d'altro tipo, come del resto è ovvio, perché ad esempio a me, che ricordo bene Have a Nice Day, quando vedo la campagna che indossa questo brano, io invece di seguire la comunicazione che mi stanno cercando di fare, io vado col pensiero ai miei ricordi personali collegati a quel brano. Ma infatti una cosa che si dice delle pubblicità è che o annoiano e dunque le ignoro, oppure sono così belle, cioè, ne so, per esempio azzeccano proprio il brano giusto, o mettono, creano una storiella in quei 30 secondi diciamo particolarmente accattivante, o che insomma cattura la mia attenzione, che alla fine, diciamo, della pubblicità ricordo la pubblicità stessa, ma non paradossalmente ovviamente il prodotto. Però nei due casi che l'ho portato, cioè sia mi annoio, cambio, oppure passo avanti davanti al cartellone e non me la filo di pezza, oppure vedo la pubblicità, mi piace la canzone, mi piacciono gli attori, mi piace la storiella che mi hai fatto vivere, alla fine però non mi riesco a ricordare ma che prodotto pubblicizzava. In tutti e due i casi, che cosa ho sbagliato come creativo? Se ho sbagliato, secondo lei, Ha sbagliato qualcosa di fondamentale. Perché quelli che occorre inscenare non sono dei raccontini. Quello che occorre inscenare sono dei racconti, spesso con la R maiuscola, perché il fatto di essere firmati da una marca commerciale non è di per sé, come dire, non costituisce la licenza per essere superficiali, sciocchi o sciatti, come è il 90% della nostra pubblicità. A lei non verrebbe spontaneo di definire raccontini, per esempio, gli spot che hanno lanciato la marca Nike negli Stati Uniti. Tanto meno le verrebbe da parlare di raccontini a proposito degli spot che hanno lanciato la marca Apple, che oggi è diventata la marca di maggior valore finanziario nel mondo. Perché? Ma non perché erano fatti bene, furbamente, ma perché contenevano, condensati in pochissimi secondi, a volte in non più di un minuto, degli spaccati di società così profondi che a volte riuscivano ad essere più significativi e più rilevanti di straordinari film, lungometraggi in giro nelle sale. Allora lì si capisce che il gioco tra le marche e il loro pubblico si gioca, il gioco vero nel mondo vero si gioca su un piano che è veramente un piano che ha a che fare con l'anima. Naturalmente è un'anima che mettiamo tra virgolette, perché siamo dei laici, come dire, tanto più quando parliamo di anima in pubblicità. Però dobbiamo tenere presente che quel furbone di Henry Ford, a cui mi pare che sia accreditata, quando parlava dell'anima del commercio, lui parlava in realtà del volano del capitalismo industriale, no? Di uno strumento che moltiplicava le vendite, questo era il punto. Oggi l'anima del commercio, per le marche che guidano i mercati mondiali, è qualcosa di più vicino a un'anima, nel senso che è qualcosa di altamente immateriale, ma di altamente delicato, di altamente esplosivo, che è la creazione di senso e di valore, ma non solo di valore finanziario, di valore di rilevanza per le persone. quindi ovviamente sono le persone sono... più potenzialità espressive, certo, ma dandogli dico... delle libertà di connessione diverse. Carnevale, ma quindi sono, diciamo, quelle quei clienti, perché poi alla fine ovviamente sono sempre clienti dal punto di vista di un creativo, certo, che vogliono vendere comunque un'idea, cioè hanno un'idea dietro, cioè detto in parole più semplici, la Nike non ha come scopo, sebbene in realtà lo abbia, quello di venderti un paio di scarpe, ma vuole venderti l'idea di quello che ci puoi fare col paio di scarpe, quindi una vita di sudore, di sacrificio, però anche di grandi risultati, di sfide, di lotte che alcune volte vinci, altre perdi. Naturalmente. Quindi naturalmente. C'è proprio l'idea dietro, e così anche la Apple, eccetera, eccetera. In quel caso, no, in quel caso non verrebbe in mente a nessuno di dire: ti ricordi quel bel raccontino che abbiamo visto così ben raccontato? Non mi ricordo chi lo firmava. Perché quando il racconto che ti viene consegnato è qualcosa che ti dice qualcosa di straordinario, che ha rilevanza per la tua esperienza personale, per la tua che dà una certa lettura imprevedibile e spiazzante della tua quotidianità o della tua interiorità o della tua vita relazionale, e quando questo racconto è anche riconducibile al genere di offerta, ma non merceologica, l'offerta valoriale che ti fa una marca, il racconto diventa rilevante, grande, indimenticabile, distintivo, memorabile e di gran valore per te, e nello stesso momento tra te e quella marca, quella e non un'altra, si stringe un rapporto che è un rapporto anche intellettuale. Cioè, quando io da ragazzo, adolescente, andavo a fare la fila nei due negozi di importazione di dischi, che a Roma riuscivano a importare i dischi che uscivano negli Stati Uniti a quel tempo 3 anni prima che uscissero in Italia, io ero nello stesso momento un consumatore, come dire, preso al laccio da parte di un'industria, no, che era quella discografica. Nello stesso momento ero una persona che stava coltivando una parte della sua espressività e della sua curiosità intellettuale, da cui poi è nato tutto un pezzo della mia vita in termini, certo, di relazioni. Quando si dice la pubblicità è tutta di destra, come diciamo all'inizio, è vero. Ma è anche vero che il gioco che si fa adesso all'interno di questa cornice di comunicazione funzionale, di comunicazione al servizio e nell'interesse di committenti industriali, può sviluppare, ed è grave che in moltissimi casi non lo faccia, anche una serie di valori utili e propulsivi e progressivi per le persone. Carnevale, senta, il tempo è tiranno e questa è un altro luogo comune. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite, la ringrazio anche per la bella chiacchierata. Grazie a voi. E ringraziamo Marco Carnevale, appunto, per essere stato nostro ospite. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittaaperta.it per essere sempre aggiornati su tutte le iniziative della radio e per sostenere Non esistono più le mezze stazioni, la campagna di raccolta fondi a favore di questa bella realtà romana. Ricordiamo di cercarci su Facebook Luogo Comune, quindi aggiungeteci, non abbiate paura ad aggiungerci come amici. Insomma, il logo è quello di Radio Città Aperta, ci sono io con mi riconoscete con un paio di occhiali, e su Twitter digitando @luogoc, oppure scrivete una bella mail a luogocomune.radio@gmail.com. da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per domenica prossima alle ore 10:45 sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta, e da Valentino De Luca una buona domenica, ciao.